Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ultima tornata di amichevoli premondiali. Il Brasile ha già vinto ieri sera a Dublino contro l'Irlanda dei Trapattoni. Stasera i match clou sono Francia-Spagna, Germania-Argentina, Inghilterra-Egitto e naturalmente Italia-Camerun, preceduta alle 18 da Italia-Ungheria Under 21 con la coppia d'attacco Balotelli-Okaka, che nel suo genere è un evento epocale. Ne parleremo più tardi, soprattutto ne parleremo domani a commento di tutto quanto sarà accaduto. Adesso invece parliamo di calcio e di società, di calcio e di costume, in collegamento con Londra, dove troviamo Mr. John Foot. Buongiorno John. Buongiorno Gigi. John Foot qualcuno di voi lo ricorda certamente perché è già stato nostro ospite, è docente di storia contemporanea alla University College di Londra, è uno studioso del fenomeno calcio, sta preparando in questi giorni la riedizione di Calcio 1898, allora era 2007, adesso sarà ovviamente 2010, Storia dello Sport, che ha fatto l'Italia, un libro che era già uscito con successo da Rizzoli nel 2007. John, ho indovinato fin qui? Giustissimo. Senti, con te, come con molti di voi ascoltatori, c'è un carteggio abbastanza costante. Stavo cercando il riferimento alla tua ultima mail, eccola qua. Non ci sentiamo da un po', mi avevi scritto, sto mettendo insieme questa nuova edizione di Calcio per il Mondiale. Sono molto colpito, e questo era il tuo messaggio di, ripeto, qualche tempo fa, dal tiro del petardo che quasi colpisce un giocatore e costa 15.000 euro di multa, e da un applauso sarcastico di Balotelli che ne costa 7.000. Ma ti domandavi, non dovevano essere sospese le partite quando si tirava un petardo? Vediamo di aggiornare la situazione a oggi. Sì, mi ha colpito molto facendo questo aggiornamento al libro che quasi tutte le cose da 2007 in poi sono negative sul calcio. Ho fatto molta fatica a trovare qualcosa di positivo sul calcio italiano. Quasi divento un cronista giudiziario perché sono stati molti processi, ma anche un esperto di criminalità diffusa, di violenza tra i tifosi, racciti, processo Racciti, Sandri, così via, no? È tutto diventato, quasi calcio non c'è. Mi ha colpito molto questa cosa, io anche l'editore mi ha detto non c'è niente, qualcosa di positivo, ho cercato molto, ma è molto difficile essere ottimista o anche trovare qualcosa che non c'entra con queste cose. Sai cosa si può trovare? Si può trovare qualcosa di umoristico, perché io ti aggiorno a oggi, per esempio, no? restando a giudice sportivo, tu eri rimasto colpito dalla sproporzione, no? Giustamente, tra un petardo e un segno di un giocatore che educatamente, mi pare, o comunque dopo tanti insulti, fa segno a questi tifosi che hanno insultato di zittirli. Tu ti intendi di bestemmie? Sei pratico, sì. Allora saprai che da questa domenica è entrato in vigore il nuovo... Sarà bellissimo. Sì. Sarà bellissimo, è già bellissimo, John, si vede che non hai ancora letto i giornali italiani di oggi. Senti che ti ragguaglio. Mm. Allora, ieri il giudice sportivo, dottor Tosel, che secondo me per l'occasione ha indossato la sottana del viceparroco, no? Come all'oratorio, ai bei tempi, quando ci sgridavano, ce ne scappava una e ci sgridavano e magari non ci faceva più giocare per un po'. Ha squalificato Di Carlo, allenatore del Chievo, per bestemmia, Lanzafame, giocatore del Parma, per bestemmia, Sicignano, portiere del Frosinone, per bestemmia, Scurto, giocatore della Triestina, per bestemmia, tutti da rapporto della Procura federale, cioè li ha sentiti un procuratore federale, li ha sentiti qualcuno a bordo campo e li ha squalificati. Marcolini del Chievo, per il quale era stata invocata la prova televisiva per bestemmia, seguimi, è stato assolto dal viceparroco dopo attento esame del labiale perché, ti leggo testualmente la motivazione, il calciatore Clivense sarebbe del Chievo, ma già il calciatore Clivense non è male, uscendo dal terreno di gioco in conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'arbitro pochi attimi prima, proferiva apparentemente un'espressione gergale in uso nel Triveneto e in Lombardia con becero riferimento a Diaz e non a Dio. Allora, questa vocale A rispetto alla O legittima quantomeno un'incertezza interpretativa e questo ha fatto assolvere Marcolini. Da Londra come la vedi la storia del Triveneto e del Clivense? Fantastico, sì o no? È stupendo, cioè, un capitolo nuovo nel libro, veramente. No, questo è, poi io credo che questo durerà 2 settimane, questa cosa delle bestemmie, perché entriamo nel... Com'è la cosa del peccato, no? C'è stato, dopo, credo che una semifinale della Champions League, dove gli interisti hanno tirato addosso le dita, grande, adesso fermiamo le partite, certo. Poi adesso diventa 15.000 euro di multa, e adesso sarà così anche con questo, perché non puoi, dall'altra parte saranno tutti sospesi, però, oppure parlano tutti in dialetto. Ma sai, poi John, è sempre anche una questione di rapporti di forza, perché sì. Marcolini gioca nel Chievo, no? Il Chievo tu sai bene che è una squadra di quartiere, e quindi domenica salterà una partita, non so contro chi, non la salta perché il giudice sportivo, leggendo, no, il viceparroco, leggendo la cosa, ha capito Diaz, eccetera. Metti che l'avesse squalificato, oppure il contrario non importa, ma soprattutto che anziché del Chievo fosse dell'Inter, della Juventus, del Milan, della Roma, del Napoli. Ma tu ti immagini cosa viene fuori se uno salta una giornata per una vocale? Poi il labiale su queste cose è stupendo, no? Staranno lì per le ore e ore a guardare queste cose, certo. Non hanno niente altro da fare, è uno spettacolo, anche sulla violenza in campo, che è una cosa un po' più seria, secondo me. Ma secondo te, sempre visto da Londra, ma che calcio è? Un calcio in cui tu la domenica vedi seggiolini incendiati, vedi e senti petardi, vedi, o meglio ancora, senti i cori razzisti, però cominci dai labiali delle bestemmie. Hanno perso senza le misure. La cosa strutturale che resta importantissima è che l'Ultra hanno ancora controllo della grande parte dello stadio. Io ho visto i derby milanesi, sono andato allo stadio. Questo controllo dello spazio c'è ancora, tuttora fortissimo, non è stato, nessuno ha preso misure contro questo controllo dello stadio. Questo resta una cosa strutturale, ecco, da questo deriva tutte le altre cose. Allora, queste sono cose che non c'entrano niente con questo problema di fondo, che non è stato. Puoi fare tutte le misure di sicurezza fuori, che poi sono quelle che sono, perché entra di tutto, ma dentro lo stadio c'è ancora questa cosa. E poi la stampa, la TV guarda moltissimo quello che dice l'Ultra, anche quando dicono delle robe assolutamente assurde. Certo. Allora io credo che questo problema strutturale è quello da confrontare, però è quello più difficile, però. Ho l'impressione anch'io. Senti, arrivano tra gli altri, ne arrivano tanti, e qualcuno mi chiede anche di rileggere quella motivazione del giudice sportivo, e prima poi lo farò, insomma, adesso magari prima concludiamo il collegamento con te, però credo che sia un pezzo che vale la pena leggere, ma poi vi leggerò anche qualche altro commento, perché ovviamente i giornali ci si sono a loro volta divertiti. C'è Marco che scrive per complimentarsi con te per il tuo libro sulla memoria del calcio in Italia. Io però ne ho ancora per te, sia ben chiaro. Ci stiamo divertendo con in compagnia di John Food, no? Proponendogli questa serie incredibile di novità dialettiche. È caduta la linea, e quindi adesso la recuperiamo velocemente. Vi posso leggere qualche commento a questa sentenza, oppure vi do un'altra notizia nel frattempo che trovo molto interessante. L'ha pubblicata la Stampa di stamane, con tra l'altro un servizio a tutta pagina. Il titolo è Sprint per Amauri. Perché? Perché Lippi ha detto ieri, giovedì, Amauri avrà il passaporto, eccetera, eccetera. Non risulta. La verità, scrive la Stampa, è che domani Amauri, sempre ammesso che Amauri poi possa servire all'Italia, questo è un altro discorso, la verità è che domani lo può solo chiedere. E sentite cosa dice a Massimiliano Nerozzi della Stampa Gianni Giaccone, direttore dei servizi civici del Comune di Torino. Dice: una volta presentata la richiesta per il passaporto, solitamente per ottenerlo occorrono dagli 1 ai 2 anni, anche se poi termini perentori non ci sono. Per presentarsi in Sudafrica, gli domanda il giornalista, stavolta dovrebbero essere ridotti a 2 mesi al massimo. Nulla lo vieta, dice il funzionario del Comune di Torino, ma un tempo così breve non mi è mai capitato. Questo mi sembra una documentazione interessante. Torniamo in compagnia di John Foote. John, fino adesso abbiamo riso, riso, o comunque insomma l'abbiamo messa così, anche perché la gag, no? Credo che la gag di quella motivazione vada oltre Totò, o comunque sia in quell'ambito. Adesso parliamo di una cosa molto seria, anzi incredibilmente seria. Sabato scorso si è giocato il derby primavera di Genova, ripeto, primavera. È iniziato con 10 minuti di ritardo perché è stato necessario prima rimuovere uno striscione lungo 25 metri esposto ai tifosi della Sampdoria, su cui si leggeva la seguente scritta gigantesca: uccideteli fin da piccoli. L'arbitro della partita, che era Massa di Imperia, ha invitato gli inservienti a togliere questo striscione, rifiutandosi di dare via la partita se non fosse stato rimosso. La scritta era stata attaccata, insomma legata, eccetera. La partita è cominciata con 7 minuti di ritardo. Il fatto che sia finita 1-1 significa poco. Io credo significhi molto il fatto che questo episodio è stato sì riportato dai giornali, però poi io credo anche, da quel che mi risulta, discretamente annegato. Tu come lo valuti? Ma ha fatto benissimo l'arbitro, peraltro, che non succede sempre in questi casi, però è chiaramente una cosa, io non so cosa dire, perché è così incredibilmente assurdo che qualcuno potrebbe pensare a una cosa così, anche poi impegnarsi a creare una striscione, portarlo allo stadio per una partita della primavera, e non so a che livello siamo arrivati. A questo punto è difficile pensare a qualcosa dove si può andare, però non è mica, è in linea delle striscioni sull'Auschwitz, abbiamo visto in un derby del romano alcuni esempi nel mio libro, cioè, è una serie di cose che va avanti da anni e nessuno, come ripeto, nessuno ha preso veramente provvedimenti contro questo tipo di azione. Bravissimo, questo è il problema. Mi ha fatto venire in mente questo, una cosa che per uno studioso di storia come te io credo sia interessante. Uno dei predecessori più illustre del presidente attuale della Sampdoria, Mantovani, che tu ricorderai, la prima volta della sua gestione che i tifosi della Sampdoria provocarono degli incidenti peraltro non gravi contro i tifosi della Cremonese, tra l'altro, il giorno dopo, cioè a fine partita, Mantovani radunò taccuini e telecamere e disse: è successo una volta, se succede la prossima volta io vendo la Sampdoria. No? Credo che sia un segnale, no? Ecco, sì, adesso questo tipo di, dovrebbero fare tutti così, tutti i presidenti. Bravo, adesso come ha fatto, per esempio, sono sempre stati isolati quando hanno fatto questi gesti, quello dell'Atalanta, dopo gli incidenti dopo Sandri, è stato molto isolato quando ha detto chiudiamo la curva, io non voglio più a che fare con questo tipo di persone. Allora c'è quel segnale di IPA, c'è anche il segnale dello Stato, queste due cose insieme, ma da anni, no? Quando hanno bandito i striscioni, in teoria, c'è stato molte persone che dicono: ah, è una questione di libertà, di democrazia, che i striscioni entrano in stadio. No, perché io non credo che sia una grandissima questione di democrazia e libertà. Quando dopo le striscioni c'è Auschwitz, gli uccidetteli da piccoli, basta. Certo, ha perso il diritto di mettere le striscioni. Si capisce. E soprattutto non è che è così importante per la democrazia. Bravo, non sprechiamo non sprechiamo la parola democrazia. Invece il presidente della Sampdoria attuale, Garrone, stamane è intervenuto, cioè dopo 4 giorni di silenzio su questo episodio, stamane è intervenuto, ma non per, come dire, richiamare all'ordine questa frangia, magari questi pochi, non importa, ma questi che hanno esposto questo striscione, ma è intervenuto per dire la seguente frase: lassù qualcuno non ci vuole vicino alla zona Champions, sono esterrefatto, credo che i commentatori, cioè, e si riferisce al fatto che domenica a Parma in effetti l'arbitro Rocchi ha sbagliato a danno della Sampdoria. Devo dire che, ricordando Mantovani, mi sarei aspettato da Garrone un intervento su un altro episodio e non invece questo accodarsi agli Zamparini, ai De Laurentiis e a tutta la compagnia di giro, no? Che, come è noto, nobilita il calcio italiano. Hanno paura, sono in balia di queste persone, che molti sono anche della criminalità organizzata. Galliani è sotto scorta, È una questione di questo tipo, non è che non c'entro con il calcio, in questo senso un presidente da solo può fare poco, può fare c'è questo movimento da tutta l'organizzazione del calcio, ma da anni, non da ieri. È vero, John. Purtroppo nessuno, e non credo che è una questione di persona, anche se ha ragionissimo su Mantovani, però... deve essere una cosa collettiva, se no non funzionerà mai. Anche questo è giusto. Sentimi, stasera nell'Under 21 una coppia di attaccanti di colore, Balotelli Okaka, gioca per la prima volta in maglia azzurra. Allora, vista da un paese come l'Inghilterra, in cui la parola integrazione, insomma, non si sa neanche più cosa sia, no? Tanto è avvenuta, è metabolizzata, è superata addirittura dalla storia. Come valutate da lì questa che per noi invece rappresenta una svolta? Beh, a livello simbolico è molto forte come cosa, perché e sarà sempre più così, perché l'Italia è una società multiculturale con 5-6 milioni di immigrati e chiaramente anche alcuni di questi diventeranno giocatori di calcio, e alcuni di questi sono già diventati, c'è Stelizorani, Ferrari, certo. Giocatori anche della nazionale, Balotelli giocherà anche lui in nazionale. È un livello simbolico, è fortissimo, e molte persone non vogliono accettare, è per quello che Balotelli, per esempio, dà molto fastidio, secondo me, anche perché lui è fortissimamente un simbolo di un cambiamento che è difficile accettare, certo. Che c'è in giro a noi in Italia, ma è anche un problema politico, sociale, così. E io, è molto interessante il confronto con Amorì e Balotelli adesso. Sicuro. Chi è più italiano? Per il momento Balotelli è molto più italiano. Ah, sicuro, per il momento Balotelli, poi se arriva in tempo il passaporto vediamo, insomma. Anche dal punto di vista culturale Balotelli è molto più italiano di Amorì, è nato e cresciuto in Italia, è sempre vissuto in Italia. Non c'è. Chi chiamerà l'IP? Questo punto di vista, secondo me. Sì, molto interessante, molto istruttivo. Senti, John, abbiamo ancora un paio di minuti. Volevo parlare di una cosa inglese, che è questa. La gamba rotta di Ramsey ci ha incuriosito. Prima ci ha fatto inorridire e poi ci ha incuriosito. Abbiamo fatto una piccola indagine qua in redazione e abbiamo scoperto che è la settima, credo, doppia frattura di tibia e perone negli ultimi anni in Inghilterra. Allora ti domando, non sarà il caso, noi parliamo sempre, anche noi da qua, sia ben chiaro, di un calcio inglese bello leale, nel senso duro ma leale. Non è il caso forse di cominciare a domandarsi se non sia troppo duro questo tipo di calcio? Io credo che sia troppo duro. Qual è la mia squadra? Io ho visto la partita. Certo, perché tu sei tifoso dell'Arsenal. È stato un momento sconvolgente, ma anche ricordava moltissimo l'infortunio a Eduardo, che è successo un paio di anni fa, che poi lui è entrato come sostituito di Ramsey dopo. È molto veloce il gioco, molto più veloce. Ci sono molti contrasti violenti. E poi con alcuni squadre c'è l'idea che si può anche picchiarli, come Arsenal, ma non solo, quelli che giocano un po' più a calcio. Sì. Bisognerebbe fare qualcosa, perché questi infortuni non sono quelli di una volta, sono cose da guerra praticamente. C'è una violenza nel contrasti che lascia, finisce la giocatura. Questo è un giocatore di 19 anni. Certo. Magari chissà come sarà quando torna. Certo. Qualcosa bisogna fare, è difficile però, perché in questo senso è stato un normale contrasto, non è stato neanche un fatto. No, è vero. Però quando si va in campo con l'idea che dobbiamo un po' picchiare, succedono anche queste cose. L'Iale non lo so, perché anche in Italia, anche in Inghilterra c'è fallo tattico. È vero. E non so cosa si può fare, gli arbitri dovrebbero ammonire di più, ma non so, è difficile perché gioco è gioco e questi contrasti succederanno sempre di più probabilmente. Hai detto benissimo, non è un problema di facile soluzione come la bestemmia, no? Che ci piazzi il labiale, ti leggi il tuo labiale e sei sereno. Pubblicare tutte queste motivazioni da adesso in poi, perché sarà... Certo. fantastico. Sarà fantastico. Ti terremo aggiornato ogni settimana per settimana. Non vedo l'ora di vedere. Non vedi l'ora, John. Ci diamo un appuntamento presto, perché io avrei avuto qualche altra domanda per te, però il tempo è scaduto. So che tu hai degli impegni nel pomeriggio. Ci risentiamo a breve. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Io ti ringrazio molto. Un saluto a John Foote. Molti messaggi su tutti gli argomenti che abbiamo trattato fino ad ora in compagnia di John Foote. In particolare scrive Daniele da Malpensa, dice: sul Fatto di Genova, il quotidiano nazionale di lunedì nell'inserto sportivo genovese sostiene che si tratti di ironia e invita a non perdere il senso della misura. Beh, insomma, l'ironia di uno striscione di 25 metri che recita "ucciditeli da piccoli" non è facilissima da cogliere. Io trovo che nel comunicato del giudice sportivo l'ironia involontaria si colga e come. Lì dove ci doveva essere si fa un po' più di fatica a rintracciarla. Fulvio ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno, anch'io faccio fatica a cogliere l'ironia su uno striscione da 25 metri. Infatti la mia domanda provocatoria è questa: se un allenatore con un labiale per una cosa deplorevole come la bestemmia, una o due giornate, per uno striscione di 25 metri con l'aggravante di una partita giovanile, qual è la sanzione? Ah, non lo so, io la mia sarebbe troppo drastica, io non potrei fare il giudice, non solo sportivo, se per quello, perché temo che appunto interpreterei sempre la forbice che il codice mi consente, andrebbe sempre troppo verso l'alto. Io credo che sia stata una cosa invece sottovalutata. Mi ha appena scritto un ascoltatore che dice: lei non ha ancora capito come funziona il fatto che in un programma come il suo e che un giornalista come lei, bontà sua, la ringrazio, parli di queste cose, significa l'errore grave, nel senso che ha funzionato quelli che questi volevano, e cioè la notorietà. Ma insomma, io dico che questo è, secondo me, non è diritto, è dovere di cronaca, e il dovere di qualcun altro invece sarebbe di individuarli, di prenderli, di denunciarli come si deve, di applicare il DASPO anche a una partita della primavera, così come il dovere invece di chi è responsabile di quella società sarebbe a sua volta lo stesso, decretando poi un tipo di pulizia interna, perché io sono convinto che è inutile che lo diceva, non so se l'ha detto chiaramente o se l'ha solo lasciato intendere John Foote prima, ma insomma, diciamo che i legami tra società e tifoserie esistono tuttora e temo esisteranno sempre. Bene, io credo che se una società vuole depurare una parte infima della propria tifoseria, credo che abbia i mezzi per farli, o se non altro i mezzi di individuare quelli da depurare. Domenico ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, vorrei intervenire sul discorso della bestemmia, no? Sì. Ora, premetto che, come giustamente aveva detto lei prima, cioè è un po' comico andare a leggere il labiale, insomma, dei calciatori che bestemmiano. Però io, se lei ci ha fatto caso, ogni volta che un giocatore esulta o subisce un fallo, fa gol, subito, se lei legge il labiale, subito scatta la bestemmia. E credo che la bestemmia, indipendentemente da se uno è credente o meno, sia una cosa, io la considero incivile. Forse si potrebbe, l'arbitro potrebbe, sentendo giustamente, perché a volte bestemmiano anche davanti agli arbitri, no? Oppure davanti ai guardianini, in quel certo caso potrebbero prendere dei provvedimenti, tipo anche l'ammonizione. Ma io sono d'accordo, Domenico, io sono d'accordo con, cioè, la sua osservazione è più che pertinente, intendiamoci. Altri stanno scrivendo qualcosa di questo genere. Io ho trovato una mail che non riesco più a rintracciare, perché ormai ne sono arrivate troppe, quindi questa è già entrata in archivio, però mi ricordo che era firmata Giuseppe e che secondo me, nella sua semplicità, il problema lo risolveva meglio di Petrucci, Diabete e del giudice sportivo Tosel, con tutta la Procura Federale mobilitata, e cioè multa, sanzione pecuniaria. Questa, l'educazione ci deve essere, l'educazione va rispettata, il rispetto alla religione è doveroso, purché non diventi grottesco come in questo caso. Perfetto. E quindi vogliono divertirsi con la caccia ai labiali, cosa? Si divertano, ma poi però non la giornata di squalifica. 10.000 euro, 5.000 euro, 50.000 euro, stabiliscano loro quanto? Un quinto dello stipendio mensile, un decimo, un terzo, tutto. Facciano loro. Però mi sembra che sarebbe leggermente più commisurato. Ricordavo quando stava per entrare in vigore questa norma, anzi quando sembrava già entrata in vigore, poi invece scoprirono che aveva bestemmiato Buffon, quindi non era ancora il caso e tanto valeva differirla, no? Mi ricordo che dissi, che ricordai come non molti anni fa in fondo sui tram ci fosse quella magnifica targhetta: la persona educata non sputa e non bestemmia, se ricordate. Ora, se invece vedete una partita, voi vedete che a fine azione il giocatore regolarmente o sputa o bestemmia, no? E allora lo sputo finora pare depenalizzato, la bestemmia pulitela con un'ammenda, esattamente come un'ammenda era prevista per chi sputava o bestemmiava sul tram. Tutto questo arzigogolo di telecamere, di procuratori federali, eccetera, mi sembra un po' eccessivo. Toccateli nel portafoglio e proviamo a educarli così. Cercando però, ripeto, sempre di essere meno ridicoli. Ieri, come ricorderete, un ascoltatore che nel frattempo si è scusato anche per iscritto e ovviamente perdonato, un ascoltatore di Bologna, si era molto lamentato perché Bologna-Genova domenica non era stato trasmesso la Domenica Sportiva. Mi ero permesso di eccepire subito che mi sembrava troppo strano e in effetti si è scusato che i servizi sono andati in onda, ma tra i tanti che ieri l'avevano rimbeccato, quella meravigliosa veramente è questa. Ho appena ascoltato una mail che è arrivata ieri poco dopo il programma. Ho appena ascoltato l'intervento sulla Domenica Sportiva. L'ascoltatore si sbaglia, la sintesi è stata trasmessa subito all'inizio, prima delle immagini del posticipo serale, firmato Stefano Stoppani, Città del Messico, che non è male, no? Perché questa è la Città del Messico, si è visto la Domenica Sportiva, ha sentito il programma in diretta e quando ha sentito questa fesseria è subito intervenuto. Per da lì è iniziato un carteggio con questo messicano che, essendo evidentemente molto collegato col nostro paese, Stefano Stoppani, era già al corrente della motivazione del Diaz, no? che vi ho letto prima, del Triveneto, della Lombardia e del Clivense, e mi ha scritto: ma non le viene voglia di mollare tutto e venirsene qui in Messico a farmi compagnia? In effetti potrebbe essere anche questa una soluzione. Sentiamo tre voci in ordine di debuttanti di stasera. Andiamo in ordine di ruolo e quindi cominciamo da uno dei due sardi, il portiere Sirigu. Devo moltissimo a Walter Zenga perché è stato lui a lanciarmi, però devo dire che devo moltissimo anche a Delio Rossi che mi ha confermato, perché quando è arrivato tutti pensavano che mi avrebbe rimesso in panchina, invece mi ha confermato titolare, e quindi merito di tutte e due, credo. Da Sirigu a un altro sardo che gioca questo davvero nel Cagliari, che è uno dei, oggettivamente da un paio d'anni, uno dei giocatori più interessanti e più positivi del campionato, che è Kossu. Io ho fatto tanta gavetta, adesso mi trovo qua e spero di dimostrare il mio valore. Beh, 2 anni e mezzo fa ero in Serie C1 a Verona e niente, poi adesso mi trovo qua e sono contento. Capita tante volte qualcuno ti dice: vedrai che arrivi, però è una cosa molto difficile. Un ascoltatore, Corrado, ricorda che oltre ai due attaccanti di colore, cioè che ho detto io, Balotelli o Kaka, potrebbe giocare anche Ogbon, è verissimo. E quindi bene, meglio, non c'è niente di, anzi più sono meglio sono in questa ottica, e soprattutto pensando ai travasi di bile, no? di chi ancora distingue sul piano cromatico. L'ultimo dei tre debuttanti che poi giocheranno o non giocheranno, Bonucci giocherà di sicuro, credo, almeno credo proprio, Kossu dovrebbe, Sirigu vediamo. Sentiamo Bonucci. Adesso non voglio pensare al mondiale, penso a sfruttare questa occasione che il mister mi sta concedendo e poi vediamo, per il mondiale è ancora lunga. Ma del mister sicuramente di giocare come so e come ho dimostrato durante questo campionato, e del capitano mi ha detto sempre di giocare facile e sereno. Un messaggio, Luca da Como dice: del derby primavera di Genova comincerei anche con il promuovere l'arbitro, bravissimo. Io infatti prima ho citato apposta il nome Massa di Imperia, il nome di questo arbitro, perché dato che sono ben pochi gli arbitri in Serie A che hanno il coraggio di intervenire in maniera ferma, dura su episodi di questo genere, questo invece lo ha fatto, e lo ha fatto in ambito giovanile, dove è vero che il senso di responsabilità per avvenimenti del genere deve essere più forte, però è anche vero che, come sapete bene, il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, e invece questo signore l'ha avuto. Altro messaggio, Fabio Flora da Udine scrive: Si è già parlato delle nuove divise della nazionale? No, Fabio, sinceramente. E il suo commento è: sulla maglia poteva andarci peggio, vedi i mondiali passati, ma sui pantaloncini che dire? Sono quel tipo boxer con cinturone tricolore che non verrebbe neanche in mente al pugile più trucido. A quando le frange e le paillette, si domanda Fabio. Vedremo prossimamente, credo, su questi schermi. Domenico da Frosinone, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io sono quel signore che lei qualche volta ha invitato a richiamare, io ogni un pochino di tempo la richiamo. Il pastore? Sì, grazie. Ma grande, sì. Il pastore di Frosinone. Sì, grazie. Io in questo momento, in questa giornata, questo inverno particolarmente rigido, uno spiraglio tra le due e le tre, grazie Garanzini di esistere. grazie a lei e no, grazie a lei invece della sua fedeltà, a parte gli scherzi, a parte gli eccessi. Sì, io volevo dire, Garanzini, scusi, diciamo, sento molto parlare di calcio, io ho vissuto il calcio povero, diciamo, di tanti anni fa, e la ringrazio quando fa sentire qualche vecchio giocatore, mi commuovo nel sentirlo. Cioè, io in questo tempo vedo soldi a destra e a sinistra, giocatori non contenti, adesso anche la bestemmia. Cioè, a dove siamo arrivati? Cioè, io sono 50 anni che faccio il pastore e non riesco ad arrivare a fine mese, e questa gente al caldo, con i soldi, è scontenta. Io rimango stupito, caro Garanzini, e non ho parole, diciamo. Cioè, vorrei dire qualche altra cosa, ma mi si chiude la gola. Io che ho 50 anni che mungo latte, non riesco ad arrivare alla fine del mese, e questa gente si lamenta. Domenico. Grazie Garanzini. No, grazie a lei, radio. Grazie a lei. Lei non è purtroppo l'unico che fa tanta, ma tanta fatica ad arrivare alla fine del mese. E purtroppo è una schiera che si sta ingrossando, a dispetto di qualcuno che ci sta raccontando che la crisi è finita, che la crisi è alle spalle, ammesso che sia mai esistita, aggiungono questi signori. Grazie del suo intervento, torni a chiamarci ogni tanto, perché un pastore delle alture del Frusinate, sinceramente, è un ascoltatore a cui sono in particolare particolarmente affezionato. Il pastore è un mito, scrive Diego, propongo di farlo pastore anche di anime contro sti fetentoni di bestemmiatori. Io propongo di andarlo a trovare un giorno o l'altro. Un giorno dato ci organizziamo, vediamo, sempre ammesso che gli faccio piacere. Al prossimo giro, alla prossima chiamata, magari qualcosa si metterà in piedi. Adesso ripassiamo la storia con l'aiuto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 marzo 1963. Al primo derby da presidente, Orfeo Pianelli, che aveva rilevato il Torino due settimane prima, vede la sua squadra trionfare per 1-0 grazie a un gol dell'ala Carlo Crip. Durante i 19 anni di gestione Pianelli, nel corso dei quali il Torino riconquisterà lo scudetto, i Granata vantano un bilancio favorevole nelle sfide con la Juventus, con 16 vittorie, altrettanti pareggi e 14 sconfitte. Crip era padre di quel giocatore che poi ha giocato a sua volta molti anni dopo nel Torino e soprattutto nel Napoli, con cui, se non ricordo male, vinse il secondo dei campionati, quello di Bigon del 90. Andrea ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buonasera Garanzini. Dica. Io, in merito al discorso delle bestemmie, volevo sapere a questo punto il giudice sportivo si avvalerà di uno stuolo di linguisti, visto l'internazionalità dei giocatori, può interpretare ogni dialetto, ogni lingua del mondo, la bestemmia, se è una bestemmia o no, la vedrò veramente difficile giudicare se è squalificabile o no un giocatore in campo. Evidentemente sono gli italiani che offendono di più le orecchie, no? Questa è un'idea di Petrucci, presidente del CONI, tra l'altro alla vigilia delle Olimpiadi. È stata un'idea di Petrucci, è stata immediatamente raccolta da Bete, insomma la storia l'abbiamo già raccontata in altre occasioni. È un'idea, secondo me, buona, direi anche ottima, se tutto fosse... Se ci fossero stati innanzitutto delle precedenze, e cioè trattasi di Pagliuzza e partiamo dalle travi, no? che abbiamo conficcate di traverso nel tessuto del calcio italiano, primo. Secondo, studiando insomma, un pochino le modalità di applicazione, forse intervenire come è stato fatto con degli squadroni di procuratori federali che da un lato tendono le orecchie sul campo e poi durante le partite, e poi il giorno successivo, dopo aver teso le orecchie sul campo, tendono gli occhi davanti a una moviola e segnalano al giudice sportivo i labiali di chi eventualmente si è fatto scappare una cosa, ripeto, lo trovo insopportabilmente comico. Saro da Catania, buongiorno. Sì, veramente, grazie, è molto comico, il suo ospite inglese è stato veramente eccezionale per questo. Io volevo dire una cosa, leggo spesso i comunicati del giudice sportivo sul sito della Lega Calcio. Sì. Noto che spesso ci sono petardi in campo, l'ultimo è stato, se non sbaglio, contro il Juventus Genoa, è arrivato addirittura nel giubbotto di un poliziotto e non è stato preso quasi nessun provvedimento, solo qualche euro di multa. Insomma, se fosse successo a Catania sarebbe successo un inferno. Volevo dire questo, e poi molto spesso queste società sono esentate in base all'applicazione dell'articolo 13, non so che cosa, quindi da punizioni ben più gravi sono esentate. E vorrei sapere che cos'è questo benedetto comma, e, insomma, non mi sembra giusto. Appunto, non, come ho, non ho idea, Saro, lo domanderemo al viceparroco in una, insomma, non appena sarà possibile, al momento non lo so. Vedo qua tra il grazie del suo intervento, vedo nel catalogo di proposte, di voci di oggi, che c'è un Lippi su Amauri, e sinceramente volevo sentire che dice. Amauri credo che diventerà italiano fra qualche giorno, e dal momento in cui diventerà italiano, allora non prima perché io non l'ho mai fatto prima, dal momento in cui diventerà italiano sarà tenuto sotto osservazione così come tutti gli altri italiani. Lo stesso Toni, se guarirà e farà bene, ce ne sono altri, Gilardino stesso che ha questo problemino, che ultimamente ha giocato tantissimo, Giuseppe Rossi che ha avuto un problema ultimamente familiare grave, purtroppo è stato fermo 20 giorni. No, era interessante sentirlo, perché come vi ho ricordato prima, questo servizio di oggi pubblicato dalla Stampa di Torino e firmato da Massimiliano Nerozzi, che dà la parola al direttore dei servizi civici del Comune di Torino, a cui Amauri ha fatto questa richiesta, dice, in altre parole, non saranno questi pochi giorni che dice Lippi entro i quali Amauri sarà cittadino italiano, perché solitamente questo tipo di pratiche per questo tipo di pratiche occorrono dagli uno ai due anni, e un tempo così breve ma anche soltanto di due mesi di concessione del passaporto, questo funzionario di Torino, nome e cognome, non lo ricorda. Arturo ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, sempre sulla bestemmia. Sì. Io devo dire, domenica ero a vedere Genoa-Bologna, al decimo gol mancato dal Genoa sono esploso in una bestemmia. Quindi lei è da prova TV? No, io sarei da prova TV. Mio vicino mi ha detto, persona gentilissima, scusi, non bestemmi che sono con un ragazzino. E mi sono sentito proprio come una schifezza, lo capisco. Avrei pagato la multa, ma non avrei accettato una squalifica. Per i calciatori mi sembra che paga lo stesso discorso, cerchiamo di limitare, tutto può scappare, ora saranno anche miliardari, ma gli può scappare, che si sentano delle cacche, ma facciamoli giocare la domenica dopo. Arturo, io lo so, vale un abbraccio il suo intervento, perché con poche, a parte una magnifica voce radiofonica, ma con poche mirate parole, secondo me lei ha messo veramente a fuoco il problema. Si ricordi che la prossima volta, se le scappa un Belin, va bene, ma se c'è un bambino nei paraggi, si ricordi di non riessere passibile di prova televisiva. Non siamo lontani dalla conclusione anche oggi, anche non so, Franco Arturi sulla Gazzetta si è esibito anche lui su questo tema, io spesso lo cito perché vale sempre la pena, conclude così, giusto, leggiamo la conclusione: se tutto questo deve trasformarsi in una grottesca caccia al presunto bestemmiatore con centinaia di orecchie protese, facciamoci una riflessione. Non vorremmo che ci si dimenticasse di perseguire delitti molto più gravi che si commettono nel nome del calcio dentro il campo e fuori. Non ci saremmo certo sgravati la coscienza in questo modo, e nemmeno lassù alla fine ci applaudirebbero. Grazie a tutti per l'attenzione, c'era Filippo Aureggi in regia, c'era Flavio Suardi con Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento come sempre per domani, vi lascio al giornale radio.